ko mos kane gidonje diro di kendo ne gibudho gilo miyo podi giparo ikadimo odoyo sami joyekoni. Kendo ne gibudho gilo miyo podi giparo ikadimo fonsi mako unga joyekoni. Come on, let's go.